Dali dali dali dali o Dali dali dali dali o Dali dali dali dali o Dali dali o bianco rosso Dali dali dali dali o, dali dali o bianco rosso.